Le 14, giovedì 20 settembre del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, Visionari, l'appuntamento con il cinema. Ogni giovedì dalle 14 alle 15, la scaletta della trasmissione di oggi la trovate sul sito della radio, www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, Visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani, venerdì 21 settembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia, il link per riascoltare la puntata precedente e tutte quelle del 2012. Bene, con noi Marco Bellocchio, benvenuto a Visionari, a Radio Onda Rossa, Marco. Sì, salve. Tutto salve. Bene? Ma insomma, discretamente. Sì. Allora, con te per parlare del film che hai presentato a Venezia, Bella Addormentata, intanto ti chiedo, visto che insomma è uscito il 6 settembre, come sta andando in sala? Ma, se bisogna essere sinceri, sta andando discretamente, probabilmente produttori e distributori speravano di più, sperare è anche legittimo. L'obiezione che mi è stata fatta ed ho verificato in alcuni passando, ieri ero a Genova, adesso sono a Torino, ho visto un grande entusiasmo, una grande commozione, una grande partecipazione, ma penso che ci sia, questo mi è stato detto, la paura di affrontare, di entrare, ecco, e questo fa sì che i risultati siano di questi tempi anche buoni, ma certamente inferiori alle aspettative. Ecco. Bisogna essere sinceri, bisogna dire le cose vere, certo, questa è la verità. Certo. Insomma, ci mancherebbe. Senti Marco, allora, noi come radio ci siamo già occupati di questa vicenda ospitando ad esempio lo spettacolo Una questione di vita e di morte, Veglia laica per E.E., che sta per Eluana Englaro, di Luca Radaelli. Sì. Allora, l'aspetto intanto apprezzabile del tuo lavoro è che affronta la questione da diversi punti di vista, da quello etico, umano, religioso, politico, medico, mettendo a confronto anche posizioni opposte. Allora, intanto ti chiedo, con quale, intanto come è nata la spinta ad affrontare la questione? La spinta è nata da che io ero uno dei milioni di spettatori, di telespettatori che seguiva questa specie di corsa, appunto, che secondo la tecnica del montaggio alla Griffith, mentre la povera Eluana era lì inconsapevole, totalmente inconsapevole, alla quiete di Udine, c'era da parte della maggioranza una corsa, direi sfrenata, proprio letteralmente sfrenata, a votare questa legge, con il cinismo da parte di molti, credo, di, non dico di sperare, ma di prevedere che la corsa sarebbe stata inutile perché Eluana sarebbe morta prima, ecco. Questo mi ha fatto reagire più che con indignazione, sì, anche indignazione e anche stupore, però poi l'idea di fare il film, in questo senso è un film non, sì, da cui se tu lo vedi capisci quali sono i miei pensieri, però non credo che sia un film ideologico che vuole dire o che vuole dare un... Io poi sono stato in qualche modo coinvolto da immagini, da personaggi, da situazioni ed è venuto fuori il film che è venuto fuori 3 anni dopo. Questo è il punto, sì, di partenza, però è stata la morte di Eluana Englaro, insomma, sì, sì, sì. E anche perché lì la mia, oltre che stima, il mio affetto è, verso un eroe molto normale che è Beppino Englaro, ecco, nasce anche da quello, insomma, come se quella scelta, quel modo di essere, quella quella tenacia anche nella solitudine, è per me qualcosa di veramente molto ammirevole, sì, insomma, sì. E per questo io ho detto più di una volta che mi onoro di essere suo amico. Ecco, proprio a questo proposito, Marco, con qual è stato l'approccio con cui hai deciso di avvicinarti alla questione e qual è stato il tuo rapporto con la famiglia Englaro, in particolare con Peppino? Con Peppino Englaro è stato un rapporto affettuoso e correttissimo, nel senso che prima di muovermi, nel senso che fare un film è piuttosto complicato, bisogna immaginare, scrivere, poi preparare, girare, montare, ma prima di incominciare io, che non conoscevo Peppino Englaro, l'ho chiamato al telefono e ho detto: guardi, io vorrei fare una cosa che prende lo spunto da quei giorni drammatici, però parla di altre cose che hanno delle connessioni fortissime col dramma di Juan Englaro, però non parlano né di lei né di Juan Englaro. Lui in questo lui è stato, oltre ad avermi dato la più totale libertà, si vedeva che gli piaceva questa idea che non era di fare la fiction delle sue vicende. Allora a questo punto mi sono sentito anche più libero e ho capito che la forma del film doveva essere raccontare altre storie che però avevano come punto di riferimento temporale quei sei famosi giorni e spaziale anche un po' l'Italia, per cui giustamente qualcuno ha detto: Bella Addormentata è anche un po' l'Italia. Sì, è l'Italia in un certo senso, sì. E le storie in qualche modo sono disseminate sullo spazio, sul territorio italiano, ecco, in questo senso è una storia italiana. Prima facevi riferimento al cinismo della politica, ecco, nel tuo film la classe politica di governo è messa in una sauna, come un corpo estraneo rispetto alla società, ecco, questa scelta? Ma anche queste scelte, io in questo ho un'idea dell'arte piuttosto romantica, nel senso che sono cose che vengono in mente, quello che si diceva a scuola, l'ispirazione, poi dopo tu capisci dopo quello che hai fatto, sia che hai fatto una cosa buona, sì che hai fatto magari una cosa che non è buona, ecco, e questa immagine che nasceva come spunto, come ho già detto, quando andammo a visitare il Senato, insomma, per un pochino documentarci, ci dissero che avevano scoperto delle antiche terme romane sotto il Senato. E allora io ho immaginato che i senatori, nei momenti di pausa, potessero fare questi bagni turchi, sì, certamente quella che la casta, insomma, i politici sono, si sa, insomma, isolati dal resto del paese, del mondo, quindi vivono in questa specie di terreno, qualcuno ha definito una specie di limbo che, in cui si rifugiano e si difendono, ecco. In questo senso, più che mai in questi anni, in generale la classe politica, si dice, è completamente separata, distaccata, non riesce ad interpretare, a capire quello che la gente, il popolo italiano, io però non c'è nel film il sentimento di odio, di disprezzo, ma di constatare il loro smarrimento e al limite anche la loro infelicità, che non è da compiangere, però certamente persone che non sono al loro posto, ma ci stanno perché ne vedono naturalmente dei grossi vantaggi, ecco. Senti, rispetto, ecco, allo scontro, all'aspro scontro che c'è stato su questa vicenda, viene in mente subito la caratteristica determinante di una delle due parti, se vogliamo citarne solo due in causa, cioè il culto della sofferenza, che rimanda anche a questioni un po' più indietro nel tempo, dalla questione del divorzio a quella dell'aborto, fino ad arrivare all'oggi con la fecondazione assistita, la terapia del dolore, se vogliamo, arrivando anche alla giustizia, con per esempio l'ergastolo come concezione del fine pena mai. Ecco, volevo chiederti certo. Quanto i diktat cattolici hanno determinato e continuano a determinare l'andamento di questo paese. Ma percentualmente non lo so, credo di chiedere gli studi, chiederlo all'ISAT, no, nel senso però che il culto della sofferenza è proprio, insomma, diciamolo, della formazione cattolica, sì, insomma, sì. Del martirio, che bisogna accettare la sofferenza, accettare il sacrificio in nome di qualche cosa che sta più, che sta oltre. Quindi una insensibilità, può darsi che un momento, adesso anche i cattolici si sono piuttosto divisi, io ho trovato dei cattolici che su quelle famose frasi, sia del Cardinal Martini che del Papa, erano totalmente d'accordo, insomma, e altri che facevano più dei distinguo, però questa idea di ritardare il farmaco che... questo me lo diceva ieri proprio a Genova un professore che lavora in ospedale, cioè che ritardare il farmaco che potrebbe lenire la sofferenza, questo accade, dice, in questo senso diceva che per esempio la morfina negli ospedali in Italia è la nazione in cui è usata di meno, mentre invece se è un farmaco formidabile in situazioni di malati terminali che potrebbero morire in modo più sereno, più quieto, più umano, insomma, mentre invece c'è questa mentalità di in qualche modo di risparmiare, sì, e quindi far soffrire di più. C'è questa mentalità, questa è una purtroppo dobbiamo dirlo, fa parte del nostro retaggio cattolico, insomma, certo. Che poi purtroppo c'è questo, che i praticanti si riducono, ma la mentalità cattolica, come una volta si diceva la mentalità comunista, la mentalità cattolica è dura, dura, dura a morire. Ecco. Oh Marco, rispetto a quella alla vicenda Englaro, il parallelo che mi viene in mente è con le vicende dell'oggi, ad esempio la questione fondamentalismo legata anche per esempio all'ultima questione del film su Maometto. Il fondamentalismo e la dialettica, ma con il divieto quasi ad affrontare alcuni temi da diversi punti di vista e volendo arrivare anche a scherzarci sopra, mi viene in mente per esempio la cultura ebraica che scherzava sull'olocausto, arrivava anche a scherzare sull'olocausto. Ecco, il fondamentalismo e la dialettica, ecco, dal tuo punto di vista. È chiaro che la vita, la dialettica, io l'ho visto anche in alcuni film, sia che parlassero di cose religiose che anche di cose politiche, vedo in questo film, per poco che constato nei rapporti diretti, ma anche leggendo, c'è un dinamismo, una dialettica, un restare sulle proprie posizioni, ma permettersi di discuterne. Ecco, questo è qualcosa che così nella nostra società, per fortuna, è abbastanza scontato. C'è anche da parte dei cattolici un certo integralismo, una certa cecità, una certa intolleranza, ma poi tu facevi l'esempio, sì, anche adesso di chi fa una vignetta sì, oppure sì, un film, lì non lo so, l'età mi suggerisce la prudenza, ecco, però certo, anche perché non conosco bene i termini della questione, la religione, lo si vede tutti i giorni, può portare a ha una cecità assoluta, certo, questo sì, certo. Non, ed è del tutto incomprensibile, ecco, non, che poi, poi lì bisogna tirare dentro poi la storia di non di centinaia di anni ma di millenni, però io capisco che sono cose drammatiche, anche tragiche, nel momento in cui le si vivono sulla propria pelle, ecco. C'è tutta una cultura ebraica, hai ragione, che riesce a... sì, però quella è un altro tipo di approccio. Riesce a riderci sopra, anche su cose di una tragicità assoluta come l'Olocausto. Adesso non lo so, lo dici tu, è così? Anche se poi sappiamo che lo Stato di Israele, insomma, non è che certo, è molto soft, certo, in questioni che riguardano, figurati, il conflitto con i palestinesi, insomma, voglio dire, è molto, è difficile, insomma, si può essere, ecco, io conosco, ho conosciuto nella mia vita e vedo quello che è il rapporto laici e cattolici, dopo guardo, mi impressiono molto, ma capisco, certo, gente che ammazza va condannata assolutamente, sia chiaro, oppure che ho la persecuzione, però bisognerebbe conoscere più profondamente i documenti, i testi, ecco. Rushdie, che è condannato a morte da 30 anni, che è quello certamente. Senti, allora. Marco, allora è stato un piacere averti con noi. Tra l'altro non so se conoscevi Radio Onda Rossa, che è una delle prime radio cosiddette libere in Italia, nata nel 1977. Insomma. Sì, sì, sì, anzi, ma sarete passati attraverso gestioni diverse, o siete sempre No, no, siamo uguali. Sempre noi, non facciamo pubblicità, insomma. Sì, però i primi saranno in pensione, suppongo. Beh, qualche cioè, vecchio ancora c'è, beh. Cioè il gruppo storico. Il gruppo storico, ancora qualcuno ce n'è, insomma. Vabbè, riuscite senza pubblicità, esatto, ci autofinanziamo con concerti, cene, vabbè, insomma, vendita di materiale che sì, produciamo noi, insomma. Comunque, grazie. Grazie a te, un abbraccio. Speriamo di risentirci. Come no, a risentirci presto. Ciao, ciao Marco. Ciao, ciao, ciao. Bene, Marco Bellocchio, per quanto riguarda il suo film Bella Addormentata, nelle sale dal 6 settembre scorso. Allora, per comunicare con noi, intanto vi do i riferimenti, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, per inviarci sms in diretta il numero è 342 3574 357. Siamo in collegamento con Claudia Barucca del coordinamento artistico di Festambiente Mondi Possibili, che sarà al Circolo degli Artisti da quest'oggi fino al 23 settembre. Claudia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno. Come va? Ma va bene, va bene. Stiamo finendo gli allestimenti, siamo molto contenti, tutto procede, quindi siamo già abbastanza pronti per l'apertura di oggi pomeriggio. Allora, un festival, una festa che comprende letteratura, comprende il teatro e il cinema. Di teatro ne abbiamo parlato martedì, l'altro ieri, per i due spettacoli che sono in programma per venerdì, con Voci nel deserto e un omaggio a Flaiano. Per quanto riguarda il cinema, Claudia? Per quanto riguarda il cinema, iniziamo già questa sera in collaborazione con il Clorofilla Film Festival, iniziamo con le proiezioni verso le 20.30, ci sarà prima la premiazione del miglior documentario, il miglior cortometraggio del Clorofilla Film Festival e poi la proiezione degli stessi. Le proiezioni saranno tutte in cuffie wireless e questa cosa l'abbiamo costruita in collaborazione con Esterni, un'impresa culturale milanese con la quale collaboriamo, e anche in ricordo di un loro collaboratore, Paolo Becchetti, che è scomparso qualche mese fa. E quindi iniziamo appunto stasera con queste due proiezioni, dopodiché continuiamo sabato sera con la proiezione dei 3 vincitori del concorso Eco Corti della sezione Cinema in un ambiente diverso, sempre del Milano Film Festival, e la proiezione del documentario The Well, Voci d'acqua dall'Etiopia, dei registi di Paolo Barberi e Riccardo Russo. E Riccardo sarà con noi sabato sera per presentare il documentario, sì, che tra l'altro ha vinto anche appunto la menzione speciale di Legambiente alla 15ª edizione di Cinema Ambiente di Torino. Sì. E chiudiamo invece domenica con la proiezione di Vita degli Oceani di Jacques Perrin e Jacques Clouseau del 2009 in collaborazione con Paco Pictures, che è il distributore italiano della pellicola. Senti, che edizione è questa? È la nostra prima edizione, prima edizione qui di Festa Ambiente e Mondi Possibili. Poi in realtà Festa Ambiente è un appuntamento diciamo storico di Legambiente su tutto il territorio italiano, che sì, accompagna, diciamo che copre dalla primavera tutta l'estate e ha il suo, diciamo, il suo evento principale a Rispescia in provincia di Grosseto ad agosto. Sì, sì, sì, sì. Senti, questa idea di tanti linguaggi artistici, incontri che si sviluppano all'interno, come viene fuori? Beh, viene fuori dalla volontà e dal tentativo di avvicinare insieme le tematiche ambientali a forme, insomma, alle arti, alla cultura e a forme di intrattenimento che possono anche arrivare ad un pubblico anche non di addetti ai lavori o di, sì, persone già con una certa sensibilità rispetto a queste tematiche. Quindi la volontà è quella di creare appunto nel contesto urbano, quindi per questo anche dentro il circolo degli artisti, una situazione in cui si possa parlare e conoscere, informarsi rispetto a queste tematiche e allo stesso tempo comunque viversi questi appuntamenti di cinema, di teatro, di musica, anche perché avremo dei concerti tutte le sere in collaborazione con il circolo degli artisti e di mostre, installazioni, area bimbi, e insomma per cercare di arrivare un po' a tutti, a chi ha voglia di venirci a trovare. Ho visto che Festa Ambiente Mondi Possibili dispone di un sito internet, di una pagina Facebook, di Twitter, e sì, volevo sapere, sì, queste 4 giornate, gli orari di inizio e fino a che ora proseguono? Allora, oggi apriamo le porte alle ore 17, ma la passeggiata inaugurale ci sarà alle ore 18, sì, e si concluderà poi con questi incontri, che c'è un altro appuntamento al quale teniamo molto, che è questo sulla città possibile, la città possibile secondo, alle 18:30 tutti i giorni. E quindi oggi iniziamo alle 18 e finiamo in tarda serata, domani lo stesso, però ci saranno 2 appuntamenti all'esterno della location del circolo, che sono Puliamo il Mondo, campagna storica di Legambiente e Parking Day, un appuntamento internazionale durante il quale si tenta di trasformare un parcheggio in un parco e quindi una riqualificazione dello spazio urbano, e in mattinata qui sempre nel quartiere Alpigneto, e poi invece il sabato e la domenica tutta la giornata, quindi dalle 10 di mattina alla sera, alla chiusura del circolo. Bene, allora rimandiamo chiaramente per ulteriori dettagli sul programma al sito internet o a Facebook o a Twitter, e ci vediamo stasera, perché tra l'altro io sono un giurato del Clorofilla Film Festival e farò anche da presentatore stasera. Assolutamente, infatti ci vediamo stasera. Se posso, se ho un altro minuto, giusto per ricordare, vai, altri 2 spazi ai quali, sì, appunto teniamo molto, che sono da una parte questa grande mostra sulla condivisione, sane esperienze di condivisione, che vedrà l'incontro di 60 progetti italiani e internazionali che lavorano in maniera diversa sulla città e sulla mobilità, ma anche sulla coprogettazione, co-housing, orti urbani, gruppi d'acquisto, eccetera, che ci saranno queste occasioni di incontro, sperando di creare sinergie e nuovi progetti. E poi l'area di gusto dedicata sia a laboratori enogastronomici che altre attività. Benissimo, Claudia, a stasera, un abbraccio. Grazie mille, Federico. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sempre visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15, continuiamo con i nostri contatti. Abbiamo con noi, con piacere, Roberto Erlizka. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Roberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io intanto ti faccio in diretta i complimenti sia per Bella Addormentata che Il Rosso e il Blu, che è in uscita domani nelle sale, due film di cui sei attore direi fondamentale. grazie. Allora, intanto partirei, visto che prima abbiamo parlato con Marco Bellocchio, della tua partecipazione a Bella Addormentata nella figura di un politico piuttosto cinico. Ecco, ti chiedo come hai vissuto la vicenda Englaro e che pensiero hai elaborato in proposito? Ma io mi ricordo che quando c'è stata questa vicenda anch'io ho preso parte all'angoscia che quasi tutti hanno provato, e dico, anch'io ero dalla parte del padre, che mi sembrava la più umana, e quindi non è che abbia avuto dubbi su come eventualmente schierarmi, però insomma l'ho vissuta così molto da fuori, ecco. Senti, arrivando al tuo personaggio invece del politico, come avete deciso con Marco di dargli carne? Ma veramente più che altro Marco me lo ha offerto, io ho letto la sceneggiatura, mi è piaciuto molto, ho detto di sì, poi ci siamo trovati in quel luogo così strano e che ha certamente dato al tutto una specie di strano fascino, ma insomma comunque la linea conduttrice è stata l'ironia, perché è un personaggio che chiaramente insomma tratta i suoi colleghi come abbiamo sentito, e forse c'è anche un fondo di commiserazione, ecco, non è soltanto cinismo il suo, ma insomma, è una presa di distanza che è quella tra l'altro che mi è piaciuta di più, dato che io non sono un appassionato di politica, naturalmente ho le mie idee, insomma, non è che mi ci riscaldo troppo, e lui mi pare che faccia un po' la stessa cosa. Senti, passando invece al Rosso e il Blu, già a partire dalla locandina, con chiaramente il Rosso e il Blu, insomma la celebre matita che segnala due gradi di errore, uno grave, uno più leggero nella didattica italiana da lungo tempo. La locandina con la foto di voi tre del corpo docente in basso e nella parte superiore capovolti gli alunni. Ecco, sì. Sembra richiamare come immagine una corresponsabilità rispetto all'andamento dell'educazione nel nostro paese, al di là della questione dei tagli, dei pesanti tagli governativi e delle riforme quasi mai benedette che insomma li accompagnano. Ecco, il tuo punto di vista? Il mio punto di vista direi che riguarda tutta la cultura, che in Italia è veramente guardata come una specie di cosa inutile, e quindi con questo disprezzo si finisce poi proprio per metterla da parte. E siccome la scuola è la base della cultura, perché è lì che le menti si cominciano a formarsi, ad avere degli interessi, è chiaro che l'abbandono in cui si trova poi diciamo che continua, quindi insomma è tutta una situazione generale che è molto ma molto grave. Rispetto al tuo ruolo nel film, ecco, volevo leggerti un passaggio della recensione che ho scritto su FilmUp, perché mi faceva piacere, insomma. Prima parlo del ruolo del supplente, che fa da contraltare ad un grande, memorabile Roberto Erlizka. Lui interpreta invece un anziano docente colto e solitario misantropo che detesta i propri allievi, capace di gesti eccentrici e spassose battute al vetriolo. È sua la parte migliore dell'opera. quasi più, dovresti ripetere le ultimissime cose che hai detto. Un docente colto e solitario misantropo che detesta i propri allievi, capace di gesti eccentrici e spassose battute al vetriolo, è sua la parte migliore dell'opera. Sono esagerato. L'opera è tutta bella, perché il mio personaggio è certamente molto interessante e originale, ma avrebbe anche senso se non ci fossero di altri personaggi, certo, che da contraltare in un altro modo, insomma, sono modi diversi, sì, e secondo me tutti credibili di rappresentare questo ambiente. Il mio personaggio mi piace molto perché è nella sua, diciamo così, contestazione a tutta la scuola, c'è un fondo di passione che poi infatti alla fine ritorna fuori, e quindi insomma non è soltanto un cinico, ma è uno diciamo addolorato che ha cambiato la sua delusione in sarcasmo, ecco. Però al fondo di tutto questo c'è un vero amore per la cultura per la quale lui vive. E comunque è un personaggio che dà uno scarto iperrealista a tutto il film, e volevo chiederti quanto c'è di tuo? Questa non l'ho sentita, mi dispiace. Sì, purtroppo sei in treno, quindi ogni tanto la comunicazione. Allora, dicevo, è un personaggio che dà uno scarto iperrealista al film, e volevo chiederti quanto c'è di tuo in questa figura. Io posso dire tranquillamente che di mio c'è molto, non perché io assomigli a questo personaggio, insomma, i colori che ci abbiamo messo io sono colori che a me sono abbastanza congeniali, quindi ci siamo anche molto divertiti a inventare scene delle cose. Certo, lui ha sfruttato la mia vena in modo molto intelligente e molto sensibile come e io mi sono sfogato a sbizzarrirmi un po', potendolo fare con un personaggio così. Certo. Senti Roberto, allora io devo dire che rispetto alla tua esperienza cinematografica ho preso piena coscienza di te da Il corpo dell'anima del 1999, e devo dire che negli ultimi anni mi sembra che tu abbia conosciuto una seconda giovinezza. E un altro aspetto che mi ha colpito del tuo secondo periodo, chiamiamolo così, è che gli attori non più giovani, per gli attori non più giovani il corpo diventa tabù, te invece ti esponi generosamente, e questo secondo me è dovuto in parte anche a una cultura ed un'attitudine teatrale. Sì, ma probabilmente è dovuto anche al fatto che in realtà io non è che sia, posso dire di non essere invecchiato bene, però anche se fuori purtroppo sì, però questo mio mantenermi disponibile, pieno di attenzione e di anche di studio nei confronti delle cose, in questo senso mi ha permesso di non appesantirmi. E poi se arrivano le parti che mi competono, allora le faccio magari anche bene. Il fatto è che per tanto tempo non mi hanno guardato con occhio, diciamo così, attento, e mi hanno tenuto da parte. Senti, rispetto ai tuoi prossimi impegni, dove ti vedremo in sala? In quale nuovo film ti vedremo? No, adesso nuovi film, sì, cioè devo dire, ne ho fatto uno, è quello di Sorrentino, La grande bellezza, dove anche lì faccio una partecipazione, poi altri non ne ho, però ho avuto delle proposte di registi, diciamo, giovani, perlomeno che mi hanno proposto le cose che sono piaciute. Purtroppo in questo caso non si sa mai se riusciranno a trovare quei soldi necessari per farlo. Ma cioè, io sono sempre qua. Senti, invece, visto che ti abbiamo ospite, parliamo a questo punto anche del teatro, che è la tua grande passione. Mi dicevi che prossimamente sarai in scena con l'ex Amleto al Teatro Lo Spazio, invece. Sì, lo riprenderò. Quello è uno spettacolo che io faccio da quasi 20 anni. E adesso ogni tanto lo riprendo quando me lo chiedono. E continuano, devo dire, a chiedermelo, lo farò al Teatro Lo Spazio, dove già l'ho fatto per 2 anni, nei 2 anni passati, e dove conto di rifarlo ogni anno, se possibile. Bene, allora io avrò modo di vederti, visto che questo spettacolo mi manca, e ci vedremo a teatro. Roberto, ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie tanto a voi e a risentirci presto. Ciao, ciao, ciao. Roberto Erlizka, attore sia di Bella Addormentata che di Il Rosso e il Blu, in uscita domani in sala, 21 settembre. Torniamo a parlare di cinema astratto, lo facciamo con Valentina Domenici, direttrice della 7ª edizione di Abstract Cinema, che si svolgerà qui a Roma dal 23 al 26 settembre. Valentina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Dico, ne riparliamo perché sono andato a ricontrollare indietro nel tempo e l'ultima volta che ho avuto ospiti voi dell'Abstracta era il 2008, quindi mi sono perso un po' di edizioni per strada. Sì, esattamente. Intanto ti chiedo, dove si svolgerà di preciso? Allora, dal 24 al 26 per 3 serate saremo a Campo Boario, sì. Presso l'Accademia di Belle Arti. Sì. Di fronte all'altra economia a Testaccio, l'ex mattatoio, sì. Saremo ospiti dell'Accademia, che quest'anno ci ha gentilmente ospitato in uno dei padiglioni nuovi nati qualche anno fa, occupati dagli studenti dell'Accademia. Allora, 7ª edizione, raccontiamo un po' il percorso di questo festival così anomalo rispetto al panorama. Sì, Abstract in realtà c'è già dal 2006, quindi siamo già arrivati alla 7ª edizione. Come stavi dicendo, in realtà il festival è stato ideato non da me ma da Massimo Pistone, che è rimasto il presidente del festival. Io ho proseguito, diciamo, questa bella tradizione, perché lo trovavo un festival molto interessante soprattutto nel panorama romano, e quindi siamo giunti a questa 7ª edizione cambiando molte cose. Sì. Quest'anno abbiamo dato molta importanza agli artisti italiani, videoartisti, filmmaker, videomaker, e abbiamo voluto dare importanza soprattutto ai giovani, dato che ci sembrava che avessero ancora poco spazio, e quindi quest'anno il festival è naturalmente internazionale, ma quest'anno ho avuto un occhio di riguardo nei confronti degli italiani che hanno partecipato. Senti, formati dal documentario al cortometraggio, immagino. Sì, dal documentario al cortometraggio, si tratta prevalentemente di cortometraggi di massimo 10-12 minuti, provenienti veramente da tutto il mondo, e la cui, diciamo, linea, il filo rosso principale è quello dell'astrazione, della sperimentazione delle forme, delle tecniche, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dei new media. Ho visto che ne sei direttrice, ti chiedo le caratteristiche dei lavori di quest'anno, quali ti sembrano quelle che un po' li accomunano e cosa ti ha sorpreso anche dei lavori che ti sono arrivati? Ma quest'anno ci sono arrivati tantissimi film sulle città, sulla dimensione urbana, sì. Quindi abbiamo deciso di creare proprio una sezione a parte all'interno della seconda serata, il 25, proprio dedicata alla città. Il titolo è La città che sale, ed è una piccola retrospettiva appunto di cortometraggi dedicati a visioni urbane internazionali e nazionali che ci sembravano particolarmente interessanti. Alcune fatte proprio in stop motion, una tecnica sempre più usata, altre in maniera più tradizionale, abbiamo sia film veri e propri, cortometraggi, che video, quindi in realtà ormai siamo sul crinale tra cinema e video art, potrei dire. Sì, sì, sì, sì. Senti, quante le opere che presenterete, più o meno? Sono una ventina, quelle selezionate, da circa un centinaio che ci sono arrivati. E gli orari del festival, la giornata com'è suddivisa? Allora, si tratta di 3 serate, da partire dalle ore 20:30 fino alle 23, con delle brevi interruzioni per approfittare anche della presenza di alcuni autori. Per esempio, l'ultima serata, il 26, faremo in contemporanea un'intervista, un incontro con Mauro Santini, a cui dedichiamo un focus speciale proprio l'ultima sera. Bene. E poi naturalmente la proclamazione del vincitore alla fine. Sì, ma ho controllato in rete, ma mi sembra che non ci sia un sito dedicato proprio ad Abstracta, o sbaglio? Sì, c'è un nuovo sito web che abbiamo inaugurato quest'anno, che è abstractafestival.com. Benissimo. Diverso da quello degli anni scorsi. A questo punto, mi sa, ulteriori dettagli del programma si possono consultare tranquillamente sul sito? Certo, assolutamente, bene. Sul programma completo. Certo. Allora, Valentina, io ti ringrazio. Grazie a voi. Ci si vede lì a questo punto. Invito, vi aspetto. Ricordiamo le date: dal 23 o del 24? Il 23 c'è una serata di inaugurazione, okay, a San Lorenzo e all'Hardcore Gallery, e poi dal 24 al 26 il festival vero e proprio. Benissimo. Benissimo. Allora, un abbraccio e a presto. Grazie. Ciao, Valentina. A presto. Ciao. Valentina Domenici, direttrice della 7ª edizione di Abstracta Cinema. Luca Franco, una vecchia conoscenza. Ciao caro, ben Ciao. Ritrovato. Come stai? Bene, bene, molto bene. Allora, poi un saluto a tutti gli ascoltatori. Bravo, e le ascoltatrici, chiaramente. E le ascoltatrici, scusami. Allora. gli ascoltatori, come si chiama? Asterisco. Con l'asterisco. Ascoltato asterisco. Asterisco. Asterisco. Allora, con te ogni tanto parliamo anche di Teatro Valle Occupato, quest'oggi però parliamo insomma, tu in questa veste di autore della seconda serie di Almost True su Rai 2, che va in onda il lunedì alle 23:55 fino al 15 ottobre. Allora, intanto, per chi non sa di cosa si tratti, ricapitoliamo. Allora, è una serie di mockumentary. I mockumentary sarebbero delle storie di fiction, però portate avanti con la forma del documentario. Ancora più interessante la serie di Almost True, perché c'è un personaggio autorevole, molto intelligente, che comunque ha messo la sua faccia in questa operazione di diciamo così, creazione di consapevolezza dello spettatore rispetto a quello che può essere un media come la televisione, che è Carlo Lucarelli. Quindi praticamente sono delle inchieste, delle finte inchieste, no, però molto verosimili, cioè fatte in modo per cui il verosimile che è stato creato alla televisione, quello che io chiamo genere tra virgolette realtà, sì, no, ti arriva a raccontare delle cose assolutamente assurde, però tu ci credi, cioè tu ci credi perché sei abituato a credere alle cose veicolate in quella forma, certo, che è la forma documentario, con un personaggio autorevole, cioè interviste, immagini di repertorio, fotografie, è un personaggio autorevole che mette insieme tutto, che in questo senso è Carlo Lucarelli. Sì. Dico che è molto coraggioso, perché poi il lavoro di Carlo è anche un lavoro rigorosissimo, quando invece fa l'altra sua trasmissione, che si chiamava Blu Notte, adesso per un motivo assurdo è stato chiamato Lucarelli Racconta, per un motivo di format, che e comunque è Blu Notte, insomma, Blu Notte Misteri Italiani, dove invece c'è un lavoro rigorosissimo, no, sulle fonti, sulle inchieste giornalistiche, come si dice, sulle sentenze, sulle cose giudiziarie. Non viene mai detto qualcosa che non sia comprovato da una sentenza, abbiamo avuto pochissime, in 11 anni ci sono state pochissime querele che sono state vinte contro Brunotte, insomma, quindi diciamo che lui la caratteristica di quest'anno è che mentre nella prima serie si parlava soprattutto di musica, no? Quindi delle leggende metropolitane della musica che hanno un'incidenza, diciamo così, anche molto divertente, quest'anno abbiamo puntato molto più in alto, abbiamo iniziato a parlare del Titanic, della vera storia di Frank Sinatra, della vera storia della disco music, della vera storia della guerra delle Falkland. Siamo andati nello spazio o no? Questa... non lo so, lo vedremo la prossima puntata. Allora, intanto io ti chiedo, Luca, visto che la prima serie si occupava di musica e ha suscitato delle reazioni contrastanti forti, molto forti, e una grande partecipazione di pubblico, del pubblico anche negli altri canali che vi siete dati via internet, questa serie che reazioni sta ottenendo? Guarda, diciamo che la seconda serie, quindi già hanno capito, quindi lo sanno. Non ci cascano. Qualcuno ci casca, chi non lo sa ci casca, e anche gli amici miei oggi hanno detto, soprattutto su questa molto divertente, La guerra fredda del Dance Floor, dove c'è, come si dice, abbiamo provato che fu Henry Kissinger a inventare la disco music per... far finire praticamente le contestazioni del 68, diciamo, c'è stata proprio una congiura in questo senso, insomma, e molta gente, diciamo, ci ha creduto, perché, come si dice, perché comunque sono cose che stanno nell'aria, non è che tu dici Andreotti è una donna, capito, in realtà c'è una cosa, capito, così, puoi anche dirlo in effetti, ma dici in effetti la disco music è stata un'operazione a tavolino con la produzione di film, un certo tipo di moda, che ha approfittato di quello che poteva essere il rifiuto. Anche delle droghe del divertimento legate. Del divertimento, poi chiaramente lì ci sono cose che sono anche, lì dentro tu ti appoggi a cose che sono anche vere, perché è vero che la CIA introdusse l'eroina nei ghetti neri, insomma, cioè ci stanno queste per... diciamo, state operazioni sporche che chiaramente non hanno avuta questa grande incisività o efficacia, però insomma la guerra sporca la CIA l'ha sempre fatto, quindi una cosa del genere è plausibile, è verosimile, insomma, solo come l'abbiamo messa noi, che poi adesso si può rivedere, lo dico perché è andata in onda, insomma, così, i grandi difensori, come si dice, della rivoluzione siamo stati Righeira, ecco, a quel punto uno dovrebbe farci qualche domanda, però come si dice, è sempre una cosa bella da credere, capito? Chi ci crede, come si dice, a quel punto dovrebbe farsi una domanda, l'altro anno era molto più forte questa cosa, su che cos'è la televisione, certo, no? Ma ormai, diciamo così, noi siamo arrivati molto tardi, perché questo era un programma che dovevamo fare negli anni 70. Esatto. Senti... adesso bisognerebbe fare una cosa del genere su internet, capito? Fare davvero un progetto di fake mostruosi su internet. Vabbè, su internet, sì, già è tutto il contrario di tutto internet, per cui figurati, già. Esatto, bisognerebbe agire su questo, però già che ci siamo arrivati adesso la gente non dice più "oh cazzo, ci ho creduto, maledetti, mi avete ingannato", dice "chissà che diranno", dice "chissà che dicono, sparatela ancora più grossa", e noi siamo un po' in difficoltà perché ci ha preso gusto. Senti, capito? A questo punto la curiosità è grande, visto che mi sono perso la puntata, ma quali erano le prove a sostegno della tesi che i Righeira sono stati gli unici difensori della rivoluzione? Perché c'è stato Baltimora che ha tentato di ucciderli al Festival Bar, e poi, come si dice, il loro professore di ginnastica era l'unico italiano che stava sul Granma. Il Granma, tu sai che è la barca che sbarcò a Cuba e che ha iniziato la rivoluzione. C'era un italiano Ed era il loro insegnante di educazione fisica. Era il loro insegnante di ginnastica. Fantastico. Di ginnastica. No, ma questa cosa è anche divertente, cioè nel senso, poi sarebbe bello che fare un gioco, qualcosa per cui tu metti a disposizione tutta una serie di fatti storici e la gente li collega come vuole. Eh sì, lanci lo stimolo, sì. Sì, un po' una presa in giro anche abbastanza seria di quello che può essere il postmodernismo in qualche modo da mercato commerciale, capito? Non esiste la storia, è tutto finito, tutto uguale a tutto, tutto è presente, capito? Sì, sì, sì, sì. Insomma, può essere, è un gioco di questo tipo, un gioco sì. Consapevole e però è un programma che, insomma, uno dei propri programmi nella televisione che gioca col pubblico, che gli chiede comunque una partecipazione attiva, che gli chiede di ragionare e non di essere passivo, no? Essere manipolato. Senti, allora, sono rimasti quanti lunedì fino al 15 ottobre? Quante puntate? No, sono rimasti tre, no, fino all'8 ottobre, scusami. 8 ottobre? Ah, finisce sì. L'8 ottobre. Sono rimasti 8. Tre lunedì, il prossimo mi dicevi è sul... Si chiama I figli delle stelle. I figli delle stelle. Ci puoi anticipare qualcosa su questo dubbio? Sì. Ma siamo andati nello spazio per davvero? Siamo sbarcati sulla Luna? Siamo sbarcati sulla Luna, ma era, cioè, non è che tu esci dalla seconda guerra mondiale, capito? E poi, capito, dopo 24 anni vai sulla Luna. Cioè, mi sembra strano a me questo. Un po' puzza, però, questa storia, sì. Però diciamo che non è così facile andare nello spazio. Però comunque era una cosa che era bello crederci. Beh, capito? Sì, anche perché ne sono girate diverse di versioni sul set ricostruito rispetto alla Luna, che insomma è stato fatto ad Hollywood. Il povero Kubrick, secondo me, ha dovuto sottostare a un grandissimo ricatto. Se non fai questo, non giri più film. Questo, dopo che lui ha fatto, diciamo solo una cosa, lui ha fatto 2001 nel 68, sì. E lì c'era la Luna. Bellissima quando loro sbarcano e si trovano davanti al monolito, e guarda caso nel 69 sono andati sulla Luna in un posto molto simile. Allora non voglio... no, però allora mi viene da pensare che c'è una grande firma dietro alle immagini dello sbarco sulla Luna. Infatti ci abbiamo creduto tutti. Cioè, non potevano farlo fare. No, non voglio dire così, ma insomma, sono un po' di registi che odio, ma non voglio dire. Ma non facciamo i nomi, va. Non facciamo i nomi, assolutamente. Però non potevano farlo fare, che ne so, a un regista italiano di fiction, sì, no? O sì. Qualcuno così. L'hanno fatto fare a Kubrick. A un grande, perché? Certo. Perché l'anno prima gli hanno detto, ma lo sai che questa Luna sembra proprio vera? Capito? Poi c'era tutto il fatto, lui aveva studiato tutto il fatto dell'assenza di peso, cioè non era uno Kubrick, era uno molto rigoroso, e quindi sì. Chissà che proposta gli hanno fatto, secondo me. Beh, la curiosità ce ne stai fornendo molta. Luca, l'appuntamento prossimo allora è lunedì alle 23.55. Il titolo è Siamo i figli delle stelle? No, I figli delle stelle. Ah, I figli delle stelle. I figli delle stelle. A questo punto restiamo con questo enigma. Lunedì 24 settembre, e poi ci dai riferimenti internet per saperne di più su Almost True? Guarda, Almost True dovrebbe essere www.almosttrue.rai.it, e l'altro è un account Facebook che si chiama Almost True. Benissimo. Dove lì è possibile insultarci, come si dice, dirci che siamo bravi, qualsiasi cosa. Noi siamo molto contenti se ci scrivete lì e ci vedete, ne pensate, certo. Questo è questi due, o se no cliccando, cioè mettendo un mostro su Google si va al sito della Rai e là si può vedere tutta la programmazione. Bene, e rivedere le puntate, e anche rivedere le puntate, perfetto. Allora, chiaramente, cioè, le puntate che sono state fatte sono questa guerra fredda del dance floor, la vera storia di Sinatra e il Titanic e la guerra delle Falkland. Bene, io ti abbraccio, ci vediamo al Teatro Valle Occupato. Va bene, ok. Ciao, Luca. Grazie a voi, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Amici. Perfetto. Va bene, ok. Ciao Luca. Ciao, ciao. Luca Franco, autore della seconda serie di Almost True, su Rai 2, il lunedì alle 23.55 fino all'8 ottobre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per inviarci degli sms in diretta, il numero è 342-357-4357. Si va avanti. Allora, avevo fatto confusione, ma alla fine ci siamo riusciti a contattarti. Michele Trentini, regista del documentario Piccola Terra, benvenuto finalmente a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille a te. Dico questo perché era un po' che ci inseguivamo. Allora, ho avuto modo tra l'altro di vedere il tuo lavoro al Clorofilla Film Festival quest'estate. Raccontiamo un po' a chi ci ascolta dell'argomento. Beh, Piccola Terra parla di alcune persone che cercano di recuperare un paesaggio terrazzato che è in stato d'abbandono, diciamo. Siamo in Valsugana, in Veneto, vicino alla al confine con il Trentino, e lì c'è una gola, una valle piuttosto stretta che fino agli anni 50, insomma, inizio 60, era completamente terrazzata con campi e muri a secco dove si coltivava il tabacco. L'Università di Padova mi ha proposto, assieme alle amministrazioni comunali, questo progetto, cioè di fare un documentario su appunto alcune persone che in qualche modo cercano di ridare nuova vita a questo paesaggio. Oh, vedevo l'altro giorno su un quotidiano, importante quotidiano nazionale a grossa tiratura, che rispetto ai dati sull'occupazione, l'agricoltura è l'unica in crescita, con un 10% addirittura. Beh, diciamo che il personaggi, i protagonisti del nostro documentario, non sono tutti agricoltori, un paio fanno gli agricoltori quasi a tempo pieno, sì. Quindi loro, abbiamo appunto dato voce a loro anche un po' per mettere in rilievo quelle che sono le contraddizioni, anche le difficoltà, no? Oltre che gli aspetti positivi di questo mondo, il mondo dell'agricoltura di montagna, soprattutto in zone molto marginali, montagne, se vogliamo, che contano meno, no? dove non c'è molto turismo e quindi dove spesso anche dimenticate, no? Dalle amministrazioni regionali. Altri due personaggi, come il caso di Aziz Wahbi, che è di origine marocchina e vive a Valstagna da 20 anni circa. Ecco, lui non fa l'agricoltore, ma si inventa appunto questa idea molto bella di andare in Marocco a prendere la menta, che è un po' un simbolo del Maghreb, delle sue terre, e l'abbiamo seguito appunto per vedere, per raccogliere anche informazioni su come coltivarla, sul periodo in cui va coltivata, e portarla a Valstagna, la sua nuova terra, la terra che in qualche modo l'ha adottato e che sente sua, per coltivarla in un campo che lui ha proprio preso in adozione, perché ricordiamo che c'è un progetto piuttosto innovativo di adozione dei terrazzamenti che ha messo in campo l'università e il comune di Valstagna, per cui molti cittadini di Bassano del Grappa, di Vicenza, di Padova, ma anche gente di lì, in qualche modo possono adottare per una cifra simbolica un terrazzamento abbandonato, un campo abbandonato, e sistemarlo e farci l'orto, fare anche altre attività. Ci sono ad esempio i Boy Scout che non coltivano la terra ma fanno le loro attività, giochi, mm-hmm. eccetera eccetera. Allora, quello dei terrazzamenti ad alta quota è una memoria antica, nel senso, nel documentario si vedono anche filmati d'epoca, una terra dura da coltivare, in quanto i terrazzamenti andavano creati e la terra non era molto fertile, quindi una grossa fatica, un grosso lavoro. Questa politica di cui stavi parlando sta ottenendo dei risultati in proposito? Beh, assolutamente sì, perché innanzitutto parliamo di paesi molto piccoli, insomma, anche con pochi abitanti, come dicevo. Il progetto, quando è iniziato, noi, come dire, abbiamo seguito le prime persone che adottavano questo terrazzamento, questo tentativo di recupero, e adesso hanno esaurito, hanno adottato, diciamo, più di 50 terrazzamenti, quindi hanno esaurito quelli che avevano a disposizione il comune, insomma l'università, e stanno cercando nuovi terrazzamenti che ci sono, però bisogna prendere gli accordi con i privati che magari li hanno abbandonati o che non li utilizzano e avere il permesso, quindi c'è tutto un progetto, diciamo, anche un'organizzazione, un comitato che sta alle spalle di tutto questo, e funziona molto, soprattutto perché c'è una nuova, come dire, sensibilità, se vogliamo, ecologista, ambientale, che soprattutto nelle città dove magari non si ha la possibilità di avere l'orto, fa sì che nelle valli vicine, dove ancora ci sono questi appezzamenti disponibili, si possa, come dire, appropriarsi quasi a tutti gli effetti di un pezzo di terra, perché poi viene adottato per 10 anni almeno, e poi può essere rinnovato. Oh, questo mi sembra un piccolo segnale di controtendenza a fronte, insomma, del problema dello spopolamento dei piccoli comuni e l'urbanizzazione. Beh, assolutamente sì. Come ripeto, io ci tengo in particolare a sottolineare la presenza e il valore che ha la figura di questo, diciamo, cittadino di origine marocchina, che è Aziz, il quale rappresenta una fetta di popolazione che a Valstagna, nel canale di Brenta, raggiunge in alcune frazioni il 20%, no? Perché molte persone di origine anche magrebina, ma non solo, che lavorano nelle città vicine, trovano casa, diciamo, gli affitti più bassi nei paesi vicini, che sono appunto magari spopolati, però dopo un po' di anni che ci vivono, che ci abitano, non li sentono più solo come dei dormitori, ma vogliono tutti gli effetti, ecco, come nel caso di Aziz, avere anche un orto, avere un pezzo di terra, no? Cioè diventa casa loro. E in più ci sono segnali, diciamo, di ritorno da parte di giovani. In realtà in tutto l'arco alpino, che insomma in qualche modo io conosco un po' meglio, c'è questa tendenza che spesso viene denominata neoruralismo, comunque tentativi di ritorno alla montagna sotto nuove forme, anche c'è chi si inventa anche nuove professioni, diciamo. Questo quindi crea anche per certi aspetti una sorta di commistione culturale, vista la forte presenza di migranti in quelle terre. Beh, assolutamente sì. Da quando, diciamo, abbiamo fatto il documentario, per esempio, abbiamo fatto anche numerose proiezioni, è come se ci fosse un'energia positiva che si contamina, no? Anche grazie a questo lavoro, per cui con Aziz abbiamo in cantiere anche molti progetti, e mi ha parlato di recente, tanto, dell'idea molto bella di fare un piccolo festival cinematografico proprio a Valstagna sui temi dell'immigrazione. Ce n'è già qualcuno in Italia, però visto che si è creata proprio questa situazione con una grande sensibilità, appunto, nei confronti dell'integrazione, della multiculturalità e anche del cinema documentario, così chiacchierando con Aziz ci è venuta un po' questa idea, vedremo se riusciremo a farlo, però per dire, ecco, questo coinvolgerebbe anche la popolazione di Valstagna, no? Certo. Sia quella immigrata, se vogliamo, che quella autoctona, tra virgolette. Michele, c'è un sito internet dedicato alla piccola terra, e poi volevo sapere anche se e quando e come potremo vederlo proiettato. Guarda, allora, Piccola Terra, innanzitutto sono molto contento perché siamo riusciti, è distribuito nelle librerie, oppure si trova anche in internet, in edizione DVD con un libretto di 40 pagine, con interventi di antropologi, critici cinematografici, poi degli autori, ecco, sono 40 pagine che spiegano un po' tutto quello che c'è dietro al documentario, anche il progetto di adozione, eccetera, eccetera, e quindi chi vuole lo trova proprio anche online o l'ordina nelle librerie. Siamo, diciamo, da quando l'abbiamo presentato a marzo, in giro per i festival, tra l'altro anticipo il fatto che sarà al Via Emilia Doc Fest, quindi si potrà vedere anche online, benissimo. Per un mese circa, mi pare, inizia tra pochi giorni, sì, il festival. Poi insomma il sito, si trova un sito sul terrealte.it, che è il sito del Club Alpino Italiano. C'è una pagina dedicata a Piccola Terra con le news, con le proiezioni, eccetera eccetera. Bene, Michele, è stato un piacere, a risentirci presto. Altrettanto, grazie a voi, ciao. Alla prossima, ciao Michele. Michele Trentini, regista del documentario Piccola Terra. Bene, avremmo dovuto avere come ospite Alessandra Tria, autrice del documentario Transiti, che va in onda su Rai 3 per Doc 3, curato tra l'altro da Luca Franco, uno dei curatori, Luca lo abbiamo sentito poco fa, il 26 settembre, mercoledì 26 settembre, non mi ricordo bene l'orario, 23:30, qualcosa del genere, insomma intorno alle 23, comunque su Rai 3 per Doc 3, Transiti. A questo punto lo lanciamo noi come appuntamento per mercoledì prossimo, Transiti, credo che le informazioni si trovino anche online. È tutto per Visionari di quest'oggi, giovedì 20 settembre del 2012, torniamo la settimana prossima, stesso orario, stesse frequenze, vi rimando per tutte le informazioni relative alla scaletta al sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Per comunicare con noi, ripeto ancora, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta 342 357 4357. A presto, buon proseguimento!